e ha detto basta intimidazioni, noi lavoriamo per lo Stato, abbiamo subito 270 atti di intimidazione, vandalismi, hanno tentato di uccidere il direttore generale, una persona armata di pistola è entrata nei nostri uffici, una situazione drammatica, ma noi applichiamo le leggi dello Stato. Ci sarebbe stato tantissimo da leggere, per esempio, sul tema degli omosessuali e dei matrimoni omosessuali con Obama, che dice sì, ma siccome non c'è tempo, non c'è mai tempo, abbastanza, sufficienza, vi lascio con il rompipallone di Gene Gnocchi oggi in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Berlusconi tranquillizza i tifosi. Rubi, Nicole Minetti e Polanco rimangono di sicuro. 24 mattino. Quando sono le 8 e 23 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare una ex parlamentare, si chiama Roberta Pizzicara. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a lei. Allora, ricordate la vicenda qualche tempo fa di ex parlamentari che hanno fatto ricorso a un organismo interno alla Camera perché sono state cambiate le regole per percepire il vitalizio? Bene, la Camera ha respinto tutti i ricorsi. Lei è una delle ricorrenti, Pizzicara. Sì, avevo fatto ricorso, infatti. Aveva fatto ricorso. Quante legislature ha fatto lei? Una. E avrebbe percepito un vitalizio, cioè percepirà un vitalizio di quanto? Sinceramente non lo so, anche perché visto che continuano a cambiare le regole probabilmente farei una previsione errata. Credo che siano sui 2.500 euro comunque. Non lo so sinceramente. Ma lei avrebbe dovuto percepirlo a quanti anni? A 50 anni? No, a 60. A 60, e invece è stata cambiata la regola, sarà a 65. Sì, infatti. E perché ha fatto ricorso? Cioè non le sembra un privilegio che è stato tolto, viva Dio? Ho fatto ricorso sinceramente perché volevo avere in forma scritta un qualcosa dove mi si dicesse che un accordo che era stato firmato 10 anni fa non era più valido. E cosa se ne fa di questa forma scritta? Cioè, E serve a me per essere pronta nel caso in cui mi chiedano qualche altro accordo, mi facciano qualche altra promessa, o meglio, per valutare lo stato in cui vivo. Ma lei sa che però è percepito il vitalizio già agli ex parlamentari come un qualcosa di insopportabile per molti italiani, cioè fare una legislatura e ottenere un vitalizio di appunto 2.500 euro. Sì, lo so. In nessun tipo di lavoro esiste una pensione di questo genere, no? Dopo 5 anni di lavoro. Infatti il fatto già di essere poi catalogata come casta o appartenente alla casta già mi mette in una cattiva luce da tutti i punti di vista. È chiaro che invece io sono, a mio parere, un classico esempio di quello che dovrebbe essere la politica. Non avevo mai fatto politica in vita mia, sono entrata in politica, ho fatto un anno di legislatura, ho fatto alcune leggi di cui vado fiera e poi me ne sono tornata al mio lavoro. In questo contesto c'erano dei, chiamiamole delle leggi, dei regolamenti, come vogliamo chiamarli, che mi permettevano, previo comunque riscatto, dopo aver pagato in pratica per i 5 anni, perché poi ho contribuito con quello che mancava al numero esatto di perché lei ha fatto ma perché lei, quindi che legislatura ha fatto? Cioè un anno, mi ha detto. Ho fatto quella, la 12ª legislatura, quella del primo governo Berlusconi, che è durata 2 anni e mezzo. Quindi 2 anni e mezzo, lei è stata in Parlamento 2 anni e mezzo in realtà, sì. Però ha riscattato gli altri 2 anni e mezzo. Sì, diciamo che per 5 anni, che fino ad arrivare ai 5 anni che mancavano. Riscatto. Che, però capisce che, voglio dire, un italiano proprio di questi tempi si è voluta cambiare la situazione, perché erano dei costi anche insopportabili. Cioè, com'è possibile che uno stia 2 anni e mezzo a fare un lavoro e ottenga un vitalizio? Era una cosa che lei otterrà comunque. Sono 5 anni, perché comunque, ripeto, io ho concluso quello che mancava economicamente. E, economicamente, e nello stesso tempo è chiaro che il cambiare questa regola è una cosa legittima, però nel momento in cui la cosa non è attiva, nel senso che si vede giusto in questi giorni, no? Anche se chiaramente il livello di problematica è completamente diverso, come cambiare le regole nel corso del gioco mentre qualcuno ha già si è già basato su quelle regole, alla fine crea un sacco di problemi. Sì. Cioè lei aveva fatto dei calcoli su questo vitalizio? No. No. No, dei calcoli, no. Nel senso dei, aveva già fatto dei progetti, delle idee, dice mi prendo 2500 euro al mese, posso fare delle cose. I sogni ci sono, però sono molto realistica io, quindi sui sogni mi baso solo quando diventano realtà, e quindi sapevo di continuare, continuerò ad andare avanti col mio stipendio, del mio lavoro normale, quindi non avevo fatto sogni. Quello che cerco di dire e di difendere, anche se poi sarò una perdente, ma questa non è la parte che mi interessa, è proprio quello di dire: se esiste un accordo firmato da entrambe le parti che è nel cassetto da 10 anni, perché non l'ho fatto all'ultimo momento per cercare di entrare in qualcosa, trovo quantomeno scorretto, indipendentemente dal contenuto, cioè sull'opportunità o meno si può discutere, però l'accordo ha cambiato le regole in corsa. Lei dice, ecco, questa cosa non va bene. Non va bene perché non va bene per nessuno. Cioè, poi si può anche suddividere per categorie, per carità, però è una regola generale che dovrebbe tutelare tutti i cittadini, che non è stata rispettata. Però capisce che l'idea è che nessuno in Italia vuole perdere quelli che vengono anche considerati dei privilegi, cioè da qualcosa bisognerà iniziare a fare un'inversione di marcia, altrimenti... Sì, senz'altro, ma per esempio, vede, nel mio lavoro normale, diciamo così, mi hanno spostato l'età della pensione e su quello non faccio nessuna battaglia, perché non era stato preso ancora un accordo. Cioè io, non era un diritto acquisito, dice, lei sta ancora lavorando. Non era, infatti, e quindi su quello non trovo nessuna scorrettezza. Su questo era un qualcosa che era già, ripeto, nel cassetto, e quindi cambiare le regole non va bene. È sbagliato. Lo pregustava. Comunque io la ringrazio, ma farà ricorso? Cioè c'è un secondo grado di giudizio? Perché il Consiglio di Giurisdizione della Camera ha respinto tutti i ricorsi, ma sì, funziona come sì. Un tribunale? Cioè c'è un appello? Sì, farò l'appello perché... Non demorde. No, perché come tante situazioni della giustizia italiana dimostrano che in Italia bisogna andare avanti, fosse solo per vedere come va a finire. Lei lotta per questo vitalizio che poi, ripeto, le arriverà comunque, però a 65 anni non più a 60, e lei lo vuole a 60, come si era messa d'accordo e come si era accordata anni fa. Sì, chiaramente il contenuto è questo. Io vorrei il rispetto di un accordo che era stato firmato. Va bene, io la ringrazio, staremo a vedere e staremo a controllare come va a finire. Grazie Roberta Pizzicara, ex parlamentare italiana, che è una dei ricorrenti per le quali la Camera peraltro ha respinto questo ricorso. 24 mattino. Sono le 8:38, cari ascoltatori. Eccoci qua allora a parlare di spesa pubblica, nel senso che 95.000 italiani, 95.000 mail sono arrivate al governo per dire: caro Enrico Bondi, commissario, si può tagliare così gli sprechi? Dite la vostra se volete via sms al 349-238-6666. La settimana scorsa, se ricordate, avevamo avuto un generale ospite, commissario della ASL di Napoli. Oggi vi presentiamo un colonnello che è commissario della ASL di Salerno. Dunque siamo sempre in campagna, il colonnello Maurizio Bortoletti, che saluto, buongiorno e grazie per essere qui con noi, colonnello. Buongiorno dottore, buongiorno ai telespettatori. Saluto anche Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro, ben ritrovato, eccoci. Buongiorno. Allora, il colonnello Bortoletti, come detto, guida l'ASL di Salerno da quanto? Da quanto l'hanno chiamata? Dall'anno scorso. Allora, diciamo, io dico questo intanto, che il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Tommaso Cottone, l'ha citata come esempio di come si può risanare o tentare di risanare un'ASL disastrata. Ci dà due numeri, per esempio, sul rosso di bilancio che ha trovato lei e com'è la situazione adesso? Ma il rosso di bilancio a marzo, alla chiusura del primo trimestre del 2011, vedeva l'azienda perdere dal 2009 oltre 700.000 euro al giorno, il che fanno 250-260 milioni di euro all'anno. E la situazione oggi è quella di una riduzione di questa perdita di circa il 90%, e con una gestione caratteristica, quindi rispetto a quello che noi riceviamo dalla regione e quello che noi spendiamo, che è in equilibrio, anzi lievemente attiva. Cioè, diciamo, da 260 milioni di euro di bilancio in rosso all'anno, quasi il recupero del 90%. Siamo... La riduzione della perdita del 90%, anche perché noi abbiamo chiuso il preconsuntivo del 2011 a meno 83 milioni di euro, ma meno 64 già il primo trimestre. Quando io ho ereditato l'azienda aveva già perso nel 2011 64 milioni di euro, quindi negli ultimi 9 mesi dell'anno la perdita è stata ridotta a 20 milioni di euro, che vuol dire 2 milioni di euro al giorno. Per questo abbiamo delle aziende più complesse d'Italia, noi abbiamo un fatturato anno di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro, una perdita iscritta a bilancio di 1,7 miliardi, 9.000 dipendenti, decine di strutture, quindi è una delle aziende che rispetto a questi numeri in valore assoluto che colpiscono molto, comunque ha dei bilanci importanti. Ecco. Ovviamente in tempi di tagli e di suggerimenti, di spending review, verrebbe da dire qual è la ricetta, se ce la dà in tre righe, se c'è una ricetta in tutto questo, se è semplice, se è complicata. No, la ricetta è quella che abbiamo seguito qui, e cioè quella della trasparenza totale prima di tutto. L'ha ricordata qualche giorno fa il professor Ichino sul Sole 24 Ore, sul Quelle della Sera, non mi ricordo, e la trasparenza è come il sole, un ottimo disinfettante. Questa è la prima cosa. Oggi tutti gli atti sono pubblici e tutti possono controllare tutti, e quindi questo rende molto più difficile seguire scorciatoie o d'altro. La seconda è stato un patto con i nostri fornitori. Noi stiamo pagando regolarmente i nostri fornitori, abbiamo appena pagato le farmacie il mese di marzo 2012, abbiamo pagato tutto il 2011, abbiamo pagato i fornitori della sanità privata entro la scadenza dei 90 giorni il mese di gennaio, e stiamo pagando i cosiddetti piccoli fornitori, quelli che per noi valgono migliaia di fatture a trimestre, per trimestre, l'ultimo trimestre del 2011. L'ultima cosa è stata quella, senza imporre regole draconiane, di una rialfabetizzazione amministrativa, perché il vero problema non era solo il buco per questa azienda, ma era proprio l'assenza di regole e la violazione di quelle poche regole quando c'erano. Basta pensare che nel solo 2010 questa azienda aveva accumulato 625 rilievi da parte del collegio sindacale e negli ultimi 9 mesi dell'anno io ho restituito 382 proposte deliberative di spesa, quindi per dire quanto è stato pervasivo il lavoro fatto. Mi colpisce anche l'idea dell'assenza di regole o del fatto rendere tutto trasparente, perché la normalità è che prima non lo era, cioè è questo che Non c'era nulla di trasparente, tanto che per trovare solamente una delibera bisognava andare a cercarla qua e là. Oggi chiunque può controllare tutto, e l'assenza di regole mi ricorda molto quell'immagine di Flaiano che diceva in pratica che l'Italia è la culla del diritto e il diritto ci sta così bene se si è addormentato. L'impressione qui era proprio quella, cioè che qui ognuno considerasse l'azienda come una sorta di banco ma senza plafond, dove ognuno andava e prelevava quel che gli serviva. Cioè nelle politiche di acquisizione mancava completamente quello che viene inteso come valorizzazione del magazzino, cioè continuavamo a comprare ogni giorno un litro di latte perché questo abbiamo detto alla Colf, e la Colf continuava a comprarlo anche quando io ero in vacanza. Insomma, ho cercato di imporre a tutti i dirigenti apicali dell'azienda e lentamente a tutta l'azienda quello che ognuno di noi fa a casa nostra, né più né meno, il buon padre di famiglia. Sì, ma infatti lei ha usato questa espressione quando di recente intervistò il Corriere della Sera: ci usavano come un bancomat. No? Uno autorizza l'acquisto di una cravatta e qua ne comprano 10.000. Cioè... Esatto, ma non solo, ma anche perché ognuno comprava e nessuno valutava i bisogni rispetto alle esigenze reali, quindi arrivavano richieste molto grandi numericamente per un'azienda che compra 850 milioni di euro di beni e servizi sul mercato, e pensare che anche l'1% vale 8 milioni di euro, quindi è chiaro che non valutando la necessità di quello che si andava ad ordinare, ognuno poteva fare un po' quel che voleva. Allora, Carlo Stagnaro, qui la questione è intanto come valutare le richieste del governo e dire agli italiani: suggeriteci cosa fare, se è un metodo utilizzabile oppure no. E poi, insomma, l'esempio del colonnello Bortoletti è dire: spesso è una questione proprio di buon senso, di vedere. La pubblica amministrazione purtroppo in Italia viene considerata da molti come pubblica e quindi non propria, e quindi se ne può fare quello che si vuole. Si può partire anche da qui, cioè dalle banali regole del buon senso, dell'utilizzo della cosa comune è considerata come cosa comune, quindi di tutti e non di nessuno. Ma io sul primo punto io chiederei un minuto di silenzio per il povero Cristo che dovrà leggere più di 100.000 mail che diranno grosso modo tutte le stesse cose, presumibilmente. Trovo che questa sia stata un'iniziativa davvero di cattivo gusto. Se l'avesse presa il precedente Presidente del Consiglio, molto probabilmente ne rideremmo nei secoli a venire. Perché è un'iniziativa di cattivo gusto? Ce l'ha anche detto, guarda, Boccia del Partito Democratico, qui a questi microfoni l'ha detto, lo ammetto, l'avesse fatta Berlusconi gli saremmo saltati addosso come non so che cosa. Ma è ovvio, è evidente, nel senso che è vero che il cittadino può osservare, tra virgolette, degli sprechi, può rilevare che ci sono troppe auto inutilizzate, può andare al catasto o in un altro ufficio pubblico e vedere che uno lavora e due giocano al solitario, ma evidentemente non può essere questo lo strumento per effettuare la spending review, anche perché normalmente il cittadino non sa nulla né della struttura dei costi sottostante al funzionamento della pubblica amministrazione né delle modalità per valutare la produttività della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione fa anche cose che noi quotidianamente non vediamo e che quindi nel nostro giudizio non possiamo includere. Per cui, come dire, quella mi è sembrata davvero una cosa populista che lascia poco al di là dell'effetto annuncio. Più serio invece è l'altra analisi che il governo dovrebbe effettuare, che riguarda essenzialmente due grandi categorie di intervento. Una è quella compiuta dal colonnello Bortoletti, tra gli altri, cioè prendere le pubbliche amministrazioni e farle funzionare meglio, in maniera tale da fare le stesse cose spendendo meno, organizzando in modo più efficiente il lavoro e così via. A questo proposito una cosa va rilevata ed è quella che scrivono oggi Alesina e Andrea Ichino, per esempio. Ora, il commissario Bortoletti è un commissario, ma un commissario straordinario, il colonnello Bortoletti è un commissario straordinario della ASL, ma presumibilmente il suo reddito è identico a quello del suo omologo in un'altra ASL che ha lasciato che tutto andasse come andava prima. Sì. Cioè, se non si introducono degli strumenti di premialità per il dirigente a vari livelli che consegue dei risultati, è molto improbabile che i risultati arrivino da soli. Quindi questo termine della premialità, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torneremo, perché molti ci suggeriscono, per esempio, abolire i tribunali militari, eccolo qui, che peraltro sono già stati più o meno aboliti o riaccorpati, gli ospedali militari, vendere le caserme, i cappellani militari, che ce l'avete tutti contro i militari, guardate che qua abbiamo un militare comunque, un colonnello, ma comunque rientreremo, anche perché voglio capire dal colonnello Bortoletti come è stata accolta anche a livello umano l'arrivo di un commissario che dice si fa così, in maniera, sentite, anche abbastanza dura, e così sta facendo. Allora, Maurizio Bortoletti, come detto, da poco più di un anno è commissario straordinario dell'ASL di Salerno, un colonnello dei Carabinieri. Come in campagna c'è il generale Scoppa, no? Che abbiamo avuto settimana scorsa, colonnello Bortoletti. Ecco, allora la prima domanda che viene spontanea è questa: ma ci vuole, per risanare la pubblica amministrazione, due esponenti dell'esercito? Ci vogliono? So che voi siete anche molto esperti in tema di amministrazione pubblica. Lei è andato anche nella Calabria post omicidio Fortugno a gestire la situazione complicata anche lì. Ci vogliono davvero dei militari? Io voglio sperare che sia no la risposta. Ma questo bisogna chiederlo al presidente Caldoro, che mi ha scelto e che poi qualche mese dopo, sulla scorta dell'esperienza positiva di Salerno, ha scelto il generale Scoppa per Napoli. Con il presidente Caldoro in realtà l'idea iniziale, proprio a fronte della situazione che io ho trovato qui a Salerno, non è stata quella di imporre le regole, perché questa è un'azienda che non si può fermare una settimana come si fa producendo macchine o da altro e poi farla ripartire in ordine, ma bisognava gestire la quotidianità e nel frattempo fare interventi straordinari. Quindi la gestione è stata completamente morbida e finalizzata proprio a rialfabetizzare gli dirigenti a decidere, a obbligarli a decidere secondo delle regole, quindi programmazione, controllo, monitoraggio e poi alla fine... Come hanno reagito? Perché che vuol dire rialfabetizzare i dirigenti? Cioè... Rialfabetizzare i dirigenti vuol dire riabituarli a ispirare le loro scelte ai criteri dell'articolo 97 della Costituzione e quindi a guardare, come ognuno fa di noi a casa propria, se quella spesa è necessaria e soprattutto se quella spesa è sostenibile. Io arrivando qui ho trovato un'infinità di lavori interrotti, inutilizzati, fermi per delle bisquiglie o per delle stupidate. Ne racconto una per tutti: abbiamo riaperto con una spesa di pochi milioni di euro un pronto soccorso, il pronto soccorso dell'ospedale più importante della provincia di Salerno, quello di Nocera, dove i lavori iniziati nel 2001 erano fermi dal 2005 per una struttura in ferro che era lì davanti al pronto soccorso che ne impediva la riapertura, e alla fine l'ho pure fatta dismettere e vendere, c'ho pure guadagnato. Quindi piccole cose banali come ognuno di noi fa a casa propria. È anche vero che in un magazzino ha trovato, leggo da Panorama, da una sua intervista, ha trovato due incubatrici, un ecocardiografo, due aspiratori medico-chirurgici, due letti da parto, un monitor, una fonte luminosa, tutti in perfetto stato, imballati e non utilizzati. Ma guarda, le dico anche di peggio, abbiamo trovato anche un defibrillatore imballato da 2 anni, e sa perché? Perché nell'ordinativo si erano dimenticati di mettere altri due pezzi che valevano 500-600 euro, adesso non ricordo, mancava una batteria e qualcosa delle piastre, e alla fine tutto era fermo e abbandonato lì. Ecco perché vi dico rialfabetizzare, perché si fa in fretta a tagliare in modo lineare, si fa in fretta a chiudere. Invece io qui non ho chiuso nulla, d'accordo con il presidente Caldoro, non ho applicato tagli lineari, non ho cambiato nessuno dei dirigenti che c'erano, ma li ho fatti ho cercato di farli salire a bordo di questa barca che all'inizio stava affondando e che oggi perlomeno è in linea di galleggiamento. Cioè l'ottica è di medio-lungo periodo, perché si va in fretta nel breve a ottenere risultati numerici, difficile è rimettere in sesto un'azienda così complessa, anzi forse la più complessa d'Italia, perché viene da tre processi di fusione incorporamento e poi di scorporo di ospedali, quindi veramente è una situazione di grossa complessità e bisogna dire grazie poi a questi dirigenti che in un anno si sono rimessi pronti a remare nella direzione. Quindi come hanno reagito? Cioè, perché umanamente non mi può far credere alla favola che tutti abbiano accolto il suo arrivo a braccia aperte, dice oh arriva il colonnello Bortoletti, ci rimette in sesto e tutto funzionerà bene. Posso essere sincero, guardi, c'erano tantissime professionalità valide che erano assolutamente demotivate, che sono messe a lavorare a mille rispetto a prima, e poi è ovvio, io dall'altra parte c'ho i beneficiari, cioè questa azione che ha portato oggi l'azienda ad avere una gestione caratteristica positiva, cioè io avanzo soldi di gestione caratteristica, oggi ho chiuso un primo trimestre con un avanzo e ho chiuso l'anno con un avanzo di diversi milioni di euro, è chiaro che bisogna porre una domanda, questi soldi dove sono finiti? Ed è chiaro che i beneficiari di questo flusso immenso di denaro, di 700.000 euro al giorno, che è una cifra spropositata che nessuno di noi guadagna in una vita di lavoro, chiaramente non stanno con le mani in mano e quindi sono aumentati gli attacchi, le diffide, le minacce, le accuse di tutti i tipi, tra l'altro anche facili da portare, perché tutta l'azione amministrativa, e questa è la vera difficoltà, deve fare lo slalom tra le macerie del passato. Qui ogni giorno salta fuori qualcosa dal passato che non conoscevamo e che spunta da qualche meandro, da qualche delibera assunta negli anni passati, quindi ovviamente c'è una difficoltà della quotidianità, nella gestione quotidiana. Carlo Stagnaro, qui bisogna capire adesso invece se a livello governativo qualcuno ha proposto e ci scrive anche, ma prendiamo il modello di dirigenti, e tornando a quello che lei diceva prima, la premialità, premiare i dirigenti bravi e metterli a capo per cercare di prendere decisioni. Però c'è anche da dire questo, tutti gli italiani sanno o pensano di sapere, visto che siamo 60 milioni di commissari tecnici da nazionale, come si deve fare per risanare il paese, per tagliare. Che cosa però bisogna fare davvero e che cosa dei suggerimenti degli italiani verrà ascoltato secondo lei dal governo? Ma io dubito che verranno letti per una ragione banale, sono troppi, cioè troppe informazioni equivalgono a minori informazioni. No, però che ne so, gli italiani, la vulgata è basta con le province, basta con le auto blu. Sì, però serviva a farselo scrivere per email oggi, cioè lo sapevamo già, e da questo punto di vista c'è una cosa importantissima, tagliare la spesa pubblica non vuol dire soltanto far funzionare meglio le cose che devono funzionare, significa anche decidere che alcune cose le pubbliche amministrazioni smettono di farle. Lo Stato non fa più le compagnie di navigazione, i comuni non gestiscono più le palestre, le attività sportive e così via, perché se noi riduciamo il perimetro della spesa pubblica, allora è difficile anche ridurne l'aggregato, non siamo nella situazione di stringere i bulloni, siamo nella situazione di calare l'accetta e bisogna decidere, questa è una decisione politica, che lo Stato deve fare meno cose. Meno cose. Colonnello, ci dice i sindacati come hanno reagito al suo arrivo? I sindacati all'inizio penso fossero perplessi sull'arrivo di un militare, tra l'altro è la prima esperienza nella storia repubblicana di un ufficiale dei carabinieri in servizio alla guida di un'azienda sciolta per dissesto finanziario, quindi chiaro la perplessità iniziale era forte. Poi ci sono molti che hanno aiutato e collaborato a questa azione, deve pensare che il mio numero di telefono e la mia mail sono a disposizione di tutti, entro sera io cerco di rispondere a tutte le mail e richiamare chi mi ha cercato. Le racconto l'ultimo, un sindacalista mi telefona per un esame della moglie che aveva una lista d'attesa di diversi mesi, un esame importante con la mammografia, alla fine con un intervento stupido siamo riusciti ad abbattere questa lista d'attesa a pochissimi giorni. Non per lui, per tutti immagino. Ovvio, sì, no, perché certo, questo è un suggerimento suo e ogni giorno arrivano suggerimenti di questo tipo, cioè riuscire ad aprire da un modo diverso di amministrare, l'amministrazione pubblica deve essere aperta, deve saper ascoltare, deve saper dire quando ha sbagliato. Recentemente mi hanno chiesto su un dipartimento che non avevamo aperto, ed è stato un errore allora non averlo fatto e rimedieremo alla prima occasione favorevole. Cioè bisogna essere veramente flessibili, trasparenti e flessibili e rendere il conto ai cittadini, perché sono quelli che pagano le tasse. L'ultima domanda da farla è questa, colonnello, perché lei ha parlato di rapporto e di accordi che ha fatto con gli imprenditori, con i fornitori, perché ieri ancora sul Corriere della Sera leggevo la classifica di Asso Biomedica che sentenzia l'azienda sanitaria locale di Salerno paga mediamente a 1.093 giorni una fattura. Allora ci spieghi com'è questa faccenda? È molto semplice. semplice. Io conosco il dottor Bortolussi, tra l'altro un sociologo come me, io insegno sociologia dell'Alleanza a Catanzaro e quindi ci parliamo spesso. La classifica è del 2010, è ferma, se ne va sul sito della CGIA di Mestre a settembre 2011, quindi quando l'azione era iniziata da pochissimi mesi, e quindi è chiaro che ha un peso del progresso che era notevole, ma me l'hanno chiesto più dire in commissione, se lei mi ha detto, ma perché lei non smentisce? È perché non serve assolutamente a nulla smentire il Corriere della Sera, tra l'altro, a parte difficilmente mi darebbero retta. Ma il punto è ce lo dica qua allora, a quanto paga adesso mediamente? Paghiamo regolarmente, abbiamo pagato le farmacie adesso regolarmente. Marzo 2012 le farmacie, la sanità privata, abbiamo pagato gennaio 2012, stiamo con tutti i fornitori indifferibili, abbiamo pagato marzo 2012. Quando io sono arrivato i pagamenti erano fermi a 8 mesi prima. Okay. Invece adesso la bella cosa è questa, che non accumuliamo più ritardi, perché prima questo debito che si accumulava giorno per giorno faceva sì che ogni 3 mesi si accumulasse un altro mese di ritardo nei pagamenti. Questo era il ciclo perverso che qui finiva solamente con alimentare gli avvocati che azionavano queste pretese creditorie legittime contro l'azienda. Allora io, colonnello, nel ringraziarla devo dire, dovrei riversarle una serie di messaggi, magari lo farò, di persone che ci scrivono clonate il colonnello Bortoletti o un colonnello Bortoletti per ogni aslo, per ogni... In ogni caso io credo che lei sia spiegato bene, poi gli ascoltatori sanno giudicare. La ringrazio per essere stato con noi, il colonnello Maurizio Bortoletti, ripeto, il commissario straordinario dell'AS di Salerno, primo militare che è stato chiamato, poi ci sono stati altri esempi, a guidare una ASL in Italia, una ASL che era dissestata dal punto di vista finanziario. Ringrazio anche Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, ci ritroviamo presto e allora che dire, l'appuntamento lo rinnoviamo a domattina? Sì, a domattina con 24 mattino alle 7:20.